voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Alberto Novarese, i tessuti tecnici di Saati, di padre in figlio, di Anna Marino. Io per fortuna i bachi da seta non li ho mai conosciuti personalmente, però sono il destinatario di una grande eredità, pesantissima eredità. Io mi sento una grossa responsabilità nel continuare un'arte che è evoluta dal baco da seta ai tessuti in fibra sintetica, che sono quelli che noi produciamo oggi. Nonostante la zona del Comasco sia da sempre il distretto del tessuto e della seta, Alberto Novarese ne ha vissuto solo l'evoluzione grazie all'impresa di famiglia. Ora è presidente di Saati, una multinazionale italiana leader nella produzione di tessuti tecnici innovativi e prodotti chimici per applicazioni industriali in diversi segmenti di business quali la serigrafia, filtrazione, protezione balistica e composti chimici speciali. Nata negli anni 30 come società di produzione di burattini di seta per setacciare le farine, viene rilevata nel 1938 da Italo Novarese, che durante la guerra diversifica l'attività con la produzione di paracadute e dà inizio al processo di innovazione continua che oggi contraddistingue i prodotti Saati. Alberto Novarese spiega quale sia stata la spinta propulsiva verso il futuro dell'attività di famiglia. Da una esigenza di investimento di mio nonno Italo, che è poi il fondatore dell'azienda, che ha rilevato una realtà esistente nel Comasco, che produceva appunto tessuti in seta per paracaduti, e successivamente questa attività poi si è evoluta grandemente verso diversi tipi di produzioni. Quindi dai paracaduti siamo arrivati ai burattini di seta per la setacciatura delle farine, settore della filtrazione delle farine, quindi per arrivare poi ai giorni nostri all'attività di produzione di tessuti serigrafici per stampa tessile, forme molto più evolute di filtrazione entro un certo micronaggio, fino alla protezione balistica e tessuti per compositi, materiali compositi avanzati. Questa l'evoluzione del prodotto, ma la storia di Saati è piena di sorprese. Ha vinto il premio di padre in figlio Il gusto di fare impresa il 24 novembre del 2012, premio promosso da Eidos Partners, Camera di Commercio Monza Brianza e Camera di Commercio di Milano, con il contributo di Borsa Italiana, Schroeder's Private Banking, Deloitte e Negri Clementi Studio Legale Associato, e con il supporto scientifico di Rete Camere, Associazione Italiana delle Aziende Familiari, Altis dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto Luigi Sturzo e Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia. Sono stato consigliato da persone che ritenevano che la nostra azienda avesse le caratteristiche per poter ben figurare in un premio di questo tipo. Dal punto di vista personale, ovviamente, il premio mi inorgoglisce, è stato abbastanza inaspettato. Però devo dire anche che quando ho letto le motivazioni, onestamente devo riconoscere che nella nostra azienda sono state fatte tante belle cose, non soltanto da me ovviamente come colui che ha preso il testimone dal padre, ma in primis da mio nonno e da mio padre. Ma anche le origini, sebbene non comasche, sono una sorpresa. La famiglia proviene da un altro distretto del tessile, ma quello che conta per il novarese è soprattutto il mestiere dell'imprenditore, al di là del prodotto. Mio nonno era di provenienza biellese ed era un rappresentante di macchine tessili che ha trovato in provincia di Como appunto questa azienda su cui investire. Mio padre ne ha preso l'eredità molto presto, in modo forzoso, convinto con le buone o con le cattive da mio nonno, e ha proseguito l'attività per oltre 40 anni, fino a quando poi io non ne ho rilevato il testimone quando lui è mancato nel 1998. Potremmo dire che l'atteggiamento della famiglia nei confronti della produzione è stato sempre un atteggiamento di carattere imprenditoriale, ovvero la nostra famiglia non ha mai avuto un sogno legato a un prodotto. Il nostro sogno era relativo alla gestione dell'azienda in termini soddisfacenti dal punto di vista economico. Quindi noi siamo degli imprenditori atipici da questo punto di vista. La nostra azienda non si riconosce per una idea imprenditoriale legata ad un'innovazione di prodotto in particolare. Mercato e produzione rispetto ai tempi di nonno Italo Novarese si sono evoluti e di conseguenza anche la preparazione e gli studi. Tre generazioni a confronto. Mio nonno era un perito tessile, quindi non era un laureato. Mio padre era laureato in lettere moderne, io sono laureato in economia e commercio. Quindi già attraverso le generazioni si vede anche un po' l'evoluzione dell'approccio imprenditoriale rispetto a un'azienda nata con certe prerogative che ora si sviluppa invece nel mercato globale attuale. Uno snodo importante nella storia delle aziende nate agli inizi del secolo scorso, la guerra. Ecco come Saati è passata attraverso il momento storico della Seconda Guerra Mondiale. È successo che a causa della atipicità della produzione, nel senso che la produzione serica della nostra azienda era di elevatissima qualità, l'azienda è stata costretta dal governo a produrre paracaduti per l'esercito. E anche il territorio li ha accompagnati in questa avventura per la sopravvivenza. A Piano Gentile era un paese di sfollati, nel senso che Milano sotto i bombardamenti costringeva molte persone a sfollare da Piano Gentile, quindi era un'economia di guerra, era un'economia molto critica, e soprattutto a Piano Gentile vedeva la presenza anche di ufficiali tedeschi che non facilitavano certo lo svolgimento dell'attività, proprio perché era antitetica rispetto, diciamo, ai loro obiettivi militari. C'era un clima di tensione, però l'azienda si è sempre comportata un po' sotto traccia, quindi è sempre stato un po' sotto il radar e quindi ha potuto continuare la propria attività senza destare particolari sospetti e quindi praticamente lavorando per lo Stato italiano senza che ci fossero delle ritorsioni particolari. Il padre ha vissuto il momento storico del dopoguerra e la scommessa è stata sull'estero e sui nuovi materiali. Il tempo del dopoguerra, degli anni 60, quindi il tempo della ricostruzione, dei grandi sogni, delle grandi ambizioni che mio padre ha saputo realizzare molto bene. Come? Essendo molto dinamico nel mercato italiano, ma soprattutto all'estero. Mio padre trascorreva all'estero anche periodi di 50-60 giorni senza rientrare, ma questo è stato il successo dell'azienda. La nostra internazionalizzazione parte dagli anni 50, soprattutto nei paesi dell'Europa dell'Est e negli Stati Uniti. Ha aperto il mercato degli Stati Uniti per primo, operazione questa molto importante perché ci ha consentito di intercettare la produzione delle fibre sintetiche, il nylon e il poliestere, che erano prodotti solo negli Stati Uniti, e quindi siamo stati innovatori proprio perché in funzione di questi viaggi mio padre è riuscito a importare queste fibre per primo e quindi dalla seta si è passati finalmente al sintetico. Ecco i viaggi avventurosi del padre nei ricordi del figlio. Io ero piccolo, ero quello che lo aspettava e non sapeva se l'avrebbe mai più rivisto, perché allora c'era una sorta di misticismo che circondava questi viaggi, cioè si andava nell'ignoto, andare nei paesi dell'est in macchina, affrontare viaggi di 20-30 ore o su aerei improbabili, o piuttosto che andare negli Stati Uniti per nave, non era garanzia di ritorno assicurato. E quindi io passavo queste giornate interminabili da figlio unico nell'attesa di rivedere il padre, per il quale nutrivo un rispetto sacrale. Raccontava di mondi che erano affascinanti e che un giorno io speravo di vedere, e che cosa che poi è ovviamente successa regolarmente, non trovando evidentemente lo stesso mondo che aveva trovato mio padre, e con molto meno misticismo, con molta meno sacralità, perché il mondo di oggi è un grande paese, allora invece erano veramente pianeti diversi. Soprattutto un aneddoto rimane impresso come una fotografia. Il bacio sulla bocca ricevuto da mio padre alla fine di una trattativa nei paesi dell'est da un alto funzionario russo a margine di una cena che celebrava appunto l'avvenuta trattativa e la conclusione della stessa con esito positivo, e questo bacio sulla bocca che aveva tanto sconvolto mio padre in realtà era il suggello del fatto che la trattativa fosse stata di successo e l'ordine assegnato alla nostra azienda. Di quel giorno in Russia ad Alberto Novarese è rimasto un colbacco donato dal padre, che ha osservato nel lavoro finché non è divenuto operativo a sua volta, imparando il mestiere, soprattutto sul campo. L'attività lavorativa vera e propria a 25 anni, quindi nel 1986, appena laureato in economia e commercio, io sono entrato ufficialmente in azienda, pur avendola frequentata per tutta la mia vita, essendovi appunto nato e avendovi dimorato dall'età di 8 mesi fino appunto a 25 anni. Però ufficialmente ho preso la carica a parte dai 25 anni come direttore della comunicazione e poi successivamente direttore marketing, direttore commerciale e alla fine direttore generale, amministratore delegato. La sovrapposizione con mio padre è dai 25 ai 37 anni. Come i suoi predecessori, anche Alberto Novarese guarda al futuro. Esponente della terza generazione che guida da un trentennio l'azienda, è riuscito a trasformarla da realtà padronale a multinazionale, presente in 8 paesi, fortemente managerializzata e organizzata in 3 divisioni che contano ognuna un terzo del fatturato totale. Il punto di partenza, però, è sempre stata l'impresa di famiglia. Io sono nato in azienda, la mia prima casa era l'azienda, mio nonno aveva l'appartamento in azienda di fianco a noi, e quindi l'azienda era tutta la vita della sua generazione, della generazione di sua figlia e della mia generazione. Questo orizzonte temporale di prospettiva che non è pluriennale ma addirittura traguarda i secoli, se vogliamo, è tipica delle aziende familiari, dove l'imprenditore ha in mente solamente la continuità dell'azienda e la possibilità di trasmetterlo alle generazioni future. Questo è il nostro obiettivo. La società oggi esporta oltre il 90% in 85 paesi. Per questo resiste anche alla crisi. Ma sono i valori a fare la parte del leone in Saati, grazie alla fondazione creata dall'azienda. Particolarmente attiva nel Sud America, quindi Brasile, Argentina e Paraguay, e sostanzialmente aiutiamo congregazioni religiose, ma non necessariamente solo congregazioni religiose, ad attivare o attuare dei progetti di accoglienza, per esempio per madri che non hanno più il marito ma che si ritrovano con 4-5 figli da mantenere, da allevare, piuttosto che aiutiamo la scolarizzazione di ragazzi poco dotati, diciamo, dal punto di vista economico, che quindi non potrebbero assolutamente adire nessuna scuola, con particolare riferimento a persone provenienti dalle favelas, quindi da zone particolarmente disagiate. E qui ancora una sorpresa coglie nel finale della storia. Alberto Novarese, presidente di Saati, non è soltanto un comasco d'adozione. Da sottolineare d'adozione, perché sono adottivo, sono figlio adottivo unico, e quindi mio padre nel fare la fondazione ha voluto ricordare e continuare, diciamo, quest'opera di adozione. Cioè, dopo il figlio noi oggi cerchiamo di adottare tanti altri bambini, indipendentemente dal fatto che poi un giorno gestiranno un'azienda. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.